Germania ha i minimi di preoccupazione non perché ha buttato a noi il rigore o nulla di simile, ma perché semplicemente perché è un'economia molto produttiva. Sono anni che lavorano a aumentare la produttività dell'economia e ci sono riusciti e producono e vanno. Noi siamo un'economia estremamente improduttiva e non produciamo niente, ma abbiamo ancora un alto livello di disoccupazione. Questo non ha nulla a che vedere, o poco a che vedere, né con la politica fiscale e nemmeno con quella monetaria. Mentre negli Stati Uniti la questione è diversa, cioè nel senso che questo comunque è un piccolissimo cambiamento, cioè diciamo è una stima con il 0.2% di differenza rispetto a quello che ci si aspettava, è nell'ordine delle cose, queste cose succedono ogni volta, cioè fuori discussione che ci sia un'uscita dalla recessione molto lenta negli Stati Uniti, ma c'è da tempo e non solo questo 0.2% che cambiano nulla, direi.